Ma diciamo fondamentalmente che la Brigata Ebraica, che come dire, comunque non era un pezzo della resistenza vera e propria, è stata un pezzo, diciamo così, degli eserciti che hanno combattuto, un pezzo dell'esercito inglese, comunque ha contribuito alla liberazione italiana, per cui è assolutamente lecito che sia lì e che tantissimi ebrei hanno partecipato alla resistenza, quindi nessuno ha nulla da ridire sul fatto che ci sia. Abbiamo da ridire sul fatto che si porti la bandiera di uno Stato genocida che in questo momento rappresenta il peggio della destra mondiale, o quasi, diciamo che, come dire, è una bella gara tra Netanyahu e Trump, e non è un problema solo di governo, purtroppo più, è un problema proprio di un paese che sostiene Netanyahu in tutto quello che sta facendo a Gaza, in Iran, eccetera, eccetera, e quindi non ha nessun senso che le bandiere di Israele siano presenti il 25 aprile, che è una giornata che ricorda la liberazione italiana, da cui è nata la Costituzione italiana, che ripudia la guerra e che è antifascista e che è, come dire, rappresenta esattamente il contrario di quello che in questo momento e in questa fase storica sta rappresentando Israele. Invece la risposta della comunità ebraica non è stata positiva, anzi è stata definita irricevibile questa lettera. Questo mi spiace per loro. E voi come commentate questa cosa e cosa avete intenzione di fare a riguardo? Fare niente, noi abbiamo fatto una civile e democratica richiesta di sensatezza e di attenzione e di rispetto verso i valori della liberazione, verso i valori della Costituzione italiana. Sono problemi loro se non se la sentono di accettarla e se non hanno intenzione di rispettare la Costituzione italiana, i valori che esprime, i valori della resistenza. Non è un problema mio, non è un, io sposto con la mia coscienza, sono loro che devono forse fare i conti con la loro.